versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 9 di gennaio, che è segnato da avvenimenti, se possibile ancora più terrificanti di quelli tragici che pure sembravano essere culminati nella strage di Charlie Hebdo a Parigi. Ma se avete sentito i colleghi di Radio 24 che mi hanno preceduto nella diretta di quello che sta avvenendo a Parigi, e Simone Spezia e Gigi Donelli, non dovete meravigliarvi se alle 16.33.07 io sono in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano, inizio la trasmissione dicendo che naturalmente noi restiamo sull'argomento di ciò che è in corso a Parigi, e anzi io avviso tutti gli ascoltatori che i colleghi del giornale radio, della redazione giornalistica di Radio 24, naturalmente hanno piena facoltà di interrompermi anche nel corso della trasmissione qualora ci fossero sviluppi in corso su questa doppia vicenda in cui si è evoluta la strage alla redazione di Charlie Hebdo. Sapete perfettamente, immagino, che i due autori, fratelli Kouachi, sono asserragliati con degli ostaggi in una piccola azienda, in una tipografia a 40 km da Parigi, e nel frattempo un altro loro sodale, un altro componente di questa, come la vogliamo chiamare, cellula sonno, e cioè Amédée Coulibaly, ha sequestrato tutti coloro che sono in un grande alimentare kosher ebraico, minacciando di uccidere i suoi ostaggi se le forze speciali francesi opereranno un blitz sui fratelli Kouachi. Nel frattempo, nelle ultime ore, Parigi è stata scossa da voci sempre più incontrollate che hanno portato alla chiusura dei negozi ebraici di alcune strade del Marais da parte del prefetto. Si è sgombrata Place de Trocadéro per mezz'ora temendo che fossero in corso attentati e sparatorie, e tutte le testimonianze, se avete sentito quella di Marc Lazar poco tempo fa ai nostri microfoni, dicono da Parigi che è una giornata del tutto paragonabile a quel senso di incertezza totale che colse l'Italia, la grande città italiana e tutta l'Italia, il giorno del sequestro di Aldo Moro. Quindi, mentre aspettiamo di capire se le forze francesi di sicurezza faranno questi blitz o tratteranno o meno, o tentiamo invece di seguire le vicende, e le seguiremo naturalmente in tutto il corso di queste sedi, o li vogliamo chiamare, con questo doppio scacco incrociato. Purtroppo i particolari che emergono anche dai servizi di informazione degli altri paesi sottolineano che un problema da parte francese c'è stato, e come, perché le rivelazioni da parte algerina, che i servizi algerini avevano avvisato il 6 gennaio dell'imminenza di un attentato terroristico in grande stile a Parigi, fanno pensare che quindi coloro che poi ne sono stati autori parlavano a telefono con fonti in Algeria ascoltate dai servizi algerini, eppure i francesi non se ne sono dati per inteso. Tutti gli altri particolari che stanno emergendo dalle forze di sicurezza e di informazione dei paesi musulmani che collaborano danno un identikit sempre più preciso delle azioni all'estero compiute per migliorare la propria formazione militare, chiamiamola così, dei fratelli Kouachi, uno nello Yemen, l'altro in Siria. Colui che ha in atto il sequestro in un alimentare kosher a Parigi è uscito di prigione solo 8 settimane fa. Ecco, stiamo parlando quindi di un fenomeno che, prima riflessione per le vostre telefonate, dice che è, come accusano molti politici, soprattutto a destra, però è sottovalutata evidentemente la pericolosità, non di gente che non si conosce, ma di persone di cui si hanno segni incontrovertibili di coinvolgimento con la rete o di Al-Qaeda o dell'ISIS o comunque di marchio fondamentalista. Avete questa impressione anche voi? Chiamateci 800 24 00 24 per dircelo. La mia riflessione di oggi, solo collaterale rispetto a questa vicenda, però, ha a che vedere anche con un problema politico molto importante, perché c'è evidentemente nelle reazioni, non solo in Francia, ma anche nel nostro paese. Quello che sta avvenendo in queste ore è che con una semplificazione che vi giro per chiedervi un'opinione, per farvi intervenire all'800240024, è che in tutti i paesi europei, ma anche in Italia soprattutto, si è visto nei talk televisivi e negli interventi politici per radio in tutte queste ore, da quando è avvenuta la strage a Charlie Hebdo e così via, destra e sinistra sono impegnate in una riedizione di un loro confronto muscolare, insomma litigi, alterchi, talvolta anche insulti personali, e diciamo destra e sinistra si contrappongono in nome di due scelte di fondo, perché la sinistra tende a difendere l'impostazione multiculturalista integrazionista e quindi fa mille distinguo più che comprensibili rispetto al fatto che bisogna distinguere tra le comunità islamiche, i grandi numeri dei musulmani che non hanno a che vedere con le reti jihadiste, il fondamentalismo, e bisogna operare con le istituzioni, con il welfare eccetera eccetera, perché sempre più evidente siano le comunità musulmane la necessità di una integrazione che però non è adesione di valori, dice la sinistra, perché il multiculturalismo impone il rispetto dei costumi, delle culture, dei metodi di organizzazione familiare e dei matrimoni di ciascuno. Dall'altra parte la destra, con sfumature diverse a seconda dei tipi di destra nei diversi paesi, però invoca il pugno di ferro. Il pugno di ferro, perché poi alla fine di questo si tratta. Si tratti di più impegno militare, meno nel nostro paese, a dire la verità, perché su questo la destra italiana è nelle sue molteplici espressioni non proprio convinta delle azioni militari contro l'ISIS e così via, ma soprattutto in Italia con una specie di stretta nei confronti dei musulmani, senza star troppo lì a guardare la differenza, perché c'è un problema di fondo. Allora, nel mentre destra e sinistra combattono duramente su integrazionismo sì o no, o giro di vite sì o no, quello che a me colpisce è che in realtà a venire messa alla berlina, e anzi a venire mitragliate, sono le libertà liberali. E queste libertà liberali, quella di espressione, la libertà di stampa, la libertà di satira, in realtà non solo finiscono travolte, ma non vengono difese né da una parte né dall'altra, nemmeno nei paesi in cui viviamo. Oggi c'era un fantastico articolo di Pierluigi Battista, secondo me, sul Corriere, che rievocava come molte firme storiche della satira e del vignettismo italiano negli anni alle nostre spalle, quando Charlie Hebdo era stato molte volte oggetto di polemiche durissime da parte del mondo islamico per la durezza delle sue vignette contro il profeta e così via, in Italia molte di queste firme, Vauro, LK e così via, dicevano no, ma noi non condividiamo affatto le vignette di Charlie Hebdo, quella è propaganda politica unilaterale, è una roba di destra, è una roba intollerante, insomma se la sono cercata, ecco. Se la sono cercata. Allora, quando nei nostri paesi espressioni della libertà che ha faticato secoli ad affermarsi, poi negli ultimi 100 anni si è affermata un pochino più solidamente, ci si divide di fronte alle libertà di espressione e a difendere le vignette, anche quando non le condividono, secondo me vuol dire proprio che siamo culturalmente pronti alla sconfitta, ma non alla sconfitta militare, cioè non quella di chi uccide la gente, non quella di chi sequestra come è in corso a Parigi. È culturalmente che non abbiamo più niente da dire se questo avviene, perché a quel punto vuol dire che abbiamo smarrito il senso di cosa vuol dire la libertà di espressione, quella cara agli illuministi e così via, perché la intendiamo come o la maniera di provocare se non siamo d'accordo politicamente, e allora non va bene perché poi stai provocando, manchi di rispetto agli altri e così via. Però questo criterio estensivamente significa che con lo stesso senso di misura le vignette politiche vanno bene solo per i politici con cui hai un'avversione, perché quelli della tua parte invece non vanno bene. Allora, secondo me questa è una delle ragioni su cui meno stiamo tutti riflettendo. Se abbiamo smarrito la capacità di difendere la libertà di espressione in quanto tale, perché non sappiamo più distinguerla se non in ragione di chi colpisce, allora guardate, non c'è bisogno dei mitra, ma non abbiamo più niente da dire nel mondo. Questa è la mia impressione, può essere che sbaglio, però, e molto probabilmente molti di voi non saranno d'accordo, sentiremo le telefonate. Però per riflettere su questo, cioè la libertà di espressione e di vignetta va difesa sempre e a prescindere, perché è una delle forme più alte della libertà che abbiamo conquistato negli ultimi 150 anni in questa parte di mondo, perché è costitutiva del nostro modello culturale, oppure no? Oppure bisogna che facciamo tutti un passo indietro e mettiamo un grande tribunale etico che ci dirà nei confronti di chi è lecito fare le vignette e nei confronti di chi invece non è lecito, e il criterio sarà quello a quel punto della simpatia politica, di come ciascuno la pensa politicamente. Io sbaglierò, ma la penso così. E la domanda che faccio a uno dei protagonisti storici della satira e della vignetta nel nostro paese, visto che fu direttore di una compagine di geni assoluti, che era quella del Male, la testata satirica che insieme a pochissime altre ha fatto fare un balzo in avanti alla libertà di espressione di satira nel nostro paese, Vincino, che è con noi appunto oggi pomeriggio in questi minuti a telefono. Grazie di essere con noi, Vincino. Eccoci. Senti, sì. Vincio, io ieri dicevo, mi sembrano un po' ipocrite le reazioni di molti politici italiani che oggi scoprono la libertà di satira, però solo contro Maometto, perché quando era contro di loro in Italia, querelavano sempre, voi eravate coperti di querele per un pacco di quattrini, quando tentaste una cerimonia satirica in cui si scopriva un busto di Andreotti a Villa Borghese, arrivò la polizia, finiste tutti denunciati e la cerimonia non si poté tenere. Allora, da questo punto di vista... Oratore della cerimonia era Roberto Benigni. Era Roberto Benigni, fu denunciato pure lui, vero? Fu preso, caddero in due perché non sapevano che era di marmo, credevano che era una cosa di gesso, ma noi facevamo le cose in maniera molto seria. Era marmo, difatti ce l'ho ancora questo busto qua. Ce l'ho ancora. Ma secondo te, allora, chi critica Charlie Hebdo perché provocava? E lo fanno molti tuoi colleghi, insomma, di grande prestigio, di bellissimo tratto, di vignetta, sì, di sinistra. Ha ragione o ha torto? Ha torto totalmente. Ma qua su quella storia io sono convinto che tutta la cosa, tutto parte dalle vignette danesi, nel senso che allora, primo, non me ne frega niente il giornale Corriere e quell'altro, io ieri avrei voluto dire a Vauro, quando diceva che quello era un giornale nazista, io avrei voluto dire: guarda che stai dicendo la stessa cosa di un intervistato alla Ballier che diceva Charlie Hebdo è un giornale nazista. Insomma, come dire, è una, così, un oltraggio di per sé, ma che non è vero affatto, è solo per... Allora, quelle vignette là in realtà provocarono il casino qualche mese dopo, furono state come pretesto. Poi di quelle 10 vignette ce ne sono, come tutto, due che mi piacciono molto e altre che non mi convincono. Mi senti? Sì, certo. Sì, c'è altre che mi convincono di meno, ma questa è la normalità delle cose, no? E io penso che Charlie Hebdo abbia fatto benissimo a difenderle e a ripubblicarle, perché come dire, cioè, quello che è sotto, quello che hanno ucciso, hanno tentato di uccidere l'altro ieri, infatti hanno detto abbiamo ucciso Charlie Hebdo, no? Sì. È il giornale di satira, il giornale di satira è il giornale più libero al esatto. mondo, sempre, è il giornale nella quale io, cioè, che ho vissuto 4 anni dentro il Male, che ho vissuto altri giornali di satira, proprio è l'unico posto dove ogni disegnatore si sente a casa sua. Non è io disegno in altri giornali, sono a casa d'altri in un certo senso, e quindi devo stare attento a come impugno la forchetta. Certo. I satira siamo a casa nostra, a casa sua, e dobbiamo cerchiamo e rovistiamo in allegria i limiti del mondo, quello occidentale, quello orientale. Prima proprio noi stessi siamo le prime vittime della nostra satira, la nostra. E chiaramente c'è Charlie Hebdo che è bellissimo per la sua durata, per la sua capacità di passare una stagione dopo l'altra, che ha analizzato bruciato e massacrato tutti i ministeri francesi, le loro fobie, le loro cose e quell'altro, e chiaramente prima la religione loro e la religione degli altri, perché poi la religione è sempre totalmente in contrasto con la satira, cioè non ci sono dei limiti. Là il problema è che si fanno prendere dalla loro parte, io come dalla loro parte politica in un certo senso, no, come dire, io da anarchico non ho parti politiche, non ho cose, non l'ho mai avute, cioè come dire, anarchico, per cui via, non, poi di volta in volta mi fa simpatia uno, poi non mi fa simpatia un altro, ma questo è un altro discorso. Però la satira la faccio su tutti, come viene, e come, cioè, come dire, nasce sulle cose libera, non assolutamente, e la devi difendere sempre. Ed è, secondo me, infatti, è stato un errore grave. Come dire, poi gli amici sbagliano. Lo so, gli amici sbagliano, però io credo che questa debolezza nella difesa della ragione di fondo di questi attacchi è una debolezza che dice molto di come non siamo più attrezzati. Il problema non sono le armi come risposta, sono le teste. Se le teste vacillano e ce ne fottiamo degli accoltellati o uccisi traduttori di Salman Rushdie, che ci ricordava Pierluigi Battista ieri, e ci dividiamo tra vignettisti italiani dicendo quelle vignette no perché sono troppo filoamericane, o sono, vuol dire che quelli hanno già vinto, ma senza mitra hanno vinto le nostre teste. Questa è la mia idea. Pierluigi Battista, che dici? No, per fortuna non hanno ancora vinto. Il problema è che mi sembra che ci sia una corsa alla rimozione della realtà, insomma, perché, cioè, la cosa è questa, che descrivere un fenomeno oggi sta a significare, nel linguaggio corrente, fomentarlo, cioè dire che questo tipo di terrorismo, come si vede anche adesso dalle cose di Parigi, anche in un supermercato ebraico, e si capisce benissimo qual è la sua radice, qual è la sua... Se non si capisce, se invece si fa il mantra per far vedere, no, per carità, l'Islam non c'entra, ma no, la religione non c'entra, è un modo per non capire che cosa sta succedendo, per non entrare, per usare la tua espressione, per non entrare nella testa di chi sta facendo queste cose. Che cosa induce, che cosa motiva delle persone a entrare dentro la redazione di Charlie Hebdo e di sterminare tutti i vignettisti e i disegnatori e il direttore che stavano lì? Che cosa? Non vogliamo cercare almeno di tentare di capire? E perché hanno costretto Salman Rushdie a vivere protetto per anni e per anni e per anni, a sgozzare il traduttore giapponese di Salman Rushdie, a pugnalare il traduttore italiano di Salman Rushdie, a prendere con l'ascia un vignettista dinese, a uccidere in modo rituale il regista Theo Van Gogh, a perseguitare Ayaan Hirsi Ali, apostata infedele, una donna somala che in questo momento è sotto il mirino? Vogliamo capire perché? Soltanto questo dico, e siamo sicuri che facendo la storia non c'entra l'Islam? Ma certo che non c'entrano 1.600.000.000 di fedeli, certo che 15 milioni di musulmani in Europa non sono terroristi, sarebbe da idioti pensare una cosa del genere, ma pensare che l'islamismo, non l'Islam, l'islamismo politico è un'ideologia totalitaria che vuole annientare, diciamo, il fondamento di quello che ritiene il mondo infedele, che ha come sua base fondamentale anche la libertà di espressione, non capire questo significa condannarsi a non capire nulla. Infatti, sono integralmente d'accordo con la somma delle parole di Vincino e di Pierluigi Battista, che ringraziamo perché avevano entrambi da fare, me le avevamo presi al volo per quello che sta succedendo, e quindi grazie a Pierluigi Battista e a Vincino. Intanto strada, e poi torniamo con le vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Nessuna novità per il momento dai due assedi, diciamo così, in corso rispetto ai due fratelli qui a 40 chilometri, gli autori della strage a Charlie Hebdo, a 40 chilometri da Parigi, e rispetto a Coulibaly, che invece ha sequestrato i presenti in un negozio kosher ebraico a Parigi. Nel frattempo sentiamo come la pensate voi. Francesco da Prato, prego Francesco. Salve, buonasera, la ringrazio per darmi la disponibilità di parlare. Per quanto riguarda il discorso della satira, quello che secondo me ha detto è giusto. Secondo me il problema nasce nel momento in cui c'è satira e religione, in quanto il limite è molto molto labile e sensibile. Certo. Quindi il problema nasce lì, secondo me. Ma è un problema però che secondo me ci deve vedere impegnati a difendere la libertà di satira, di sfottere i papi come facevano regolarmente, o i preti pedofili come facevano quelli di Charlie Hebdo, e anche Maometto e Allah. Cioè, io su questo penso che se noi non facciamo questo e diciamo no, quello non si tocca, il dio degli islamici non si tocca, si tocca solo il nostro, per me è una roba, cioè, significa veramente che prendiamo i 200 anni di lotta per la libertà in Occidente e li buttiamo via. No, ma infatti ha ragione, io dico religione tutte, no? Esatto, però io sono per difendere, e non, e spesso non sono d'accordo con come sono fatte le vignette. I politici di solito mi dicono no, sbagli, perché le vignette sono come un pezzo diffamatorio, io ti porto in tribunale. Secondo me le vignette hanno uno spazio loro, rispetto a il giornalista deve, se scrive di un politico o di un imam accusandolo di reati, deve documentare, è un'altra cosa, e quindi è un altro codice, è un altro codice deontologico, ma è la vignetta. La libertà di satira, lo stato puro, e secondo me è una delle più alte libertà, frutto d'evoluzione della nostra cultura. Io la voglio difendere. Giuseppe da Belluno, come la pensa? Caro Giannino, stiamo perdendo. Stiamo perdendo. Allora, è inutile perderci in tante discussioni, bla bla. Loro, l'integrazione, se lei ha un vicino di casa islamico, non è che si metta a dialogare con lui, che sua moglie venga a mangiare la pasta asciutta a casa. Purtroppo non ci può essere integrazione con due culture così diverse. Le vignette sono solo un pretesto. Quelli più estremisti che ho sentito come dichiarazioni, sì, dicono che bisogna fare rispettare le regole, eccetera, eccetera. Ma signori, ma fra 10 anni saranno loro a fare le regole? Questa è una cosa che noi non riusciamo a capire. In Belgio c'è il 4%, c'è un partito islamico che ha il 4%. Noi adesso Alfano sembra che parli di cambiare, rispettare le regole e stare attenti. Ma fra 10 anni le faranno loro le regole a noi? Quindi mi piacerebbe sapere se in Francia ci fosse un presidente della Repubblica islamico con un presidente del governo islamico. Cosa succederebbe? Come tratterebbe la questione? Allora, Giuseppe, tu tocchi un punto delicato, perché il romanzo che doveva uscire in questi giorni in Francia, questo di Michel Houellebecq, Sottomissione, che descrive proprio una Francia del 2022 con un presidente islamico, l'autore ha deciso di non fare propaganda al suo libro. Un'altra cosa per me intollerabile, un'altra sconfitta culturale, perché significa che neanche un romanzo scritto paradossalmente apposta per far riflettere su quello di cui ci dice il nostro ascoltatore, chi l'ha scritto non ha più il coraggio di difenderlo. Io lo trovo pazzesco, si perde prima nelle teste, poi con le armi. Giorgio da Milano, come la pensa? Sì, buonasera Giannino, io penso sia una sconfitta però anche sentire della gente che dice che l'integrazione è impossibile, usando magari l'aneddotica del vicino di casa. Io conosco decine, perché facciamo business con un sacco di persone musulmane, sono persone straordinarie, quindi già sentire questa cosa è un'altra sconfitta. Ma io volevo però dire una cosa, che è questa: qui stiamo parlando di gente che si è armata in dei teatri di guerra, sì, dove noi abbiamo contribuito a creare questo fenomeno. La filosofia del fine che giustifica i mezzi americana, che nasce con il supporto alla protesta antisovietica in Afghanistan e poi è passata per l'Iraq, e poi che sappiamo quello che è diventato. Certo, c'era un dittatore, ma era un paese molto laico, c'era la gente che girava senza il velo. Cos'è successo in Libia? Com'è ridotta la Libia? E chi è stato che ha fatto fuori Gheddafi? I francesi, giustamente, adesso si lamentano, ma che responsabilità hanno avuto insieme agli inglesi in Libia? Sì, i francesi e i britannici hanno voluto l'operazione. Certo. Andavamo a bombardare i serbi, l'anno scorso, quando Assad diceva guardate che questi sono questa gente qui, noi l'abbiamo irriso, ci siamo inventati la storia delle armi chimiche di cui si è liberato e stavamo andando di nuovo a bombardare, solo perché magari è un amico di Putin. Allora, questa è gente armata e si arma in teatri di guerra dove noi abbiamo avuto sempre un rapporto molto ambiguo. Sì, sì, sì, no, no, ma tu dire che l'Occidente abbia di che riflettere. Siria. Vengono dalla Siria, su... vengono da lì. Sì, sì, no, no, no, ma per mesi. Adesso le dico un'altra cosa, cosa sta e oltretutto in una condizione Kobane, nella quale in questi anni abbiamo assistito senza muovere un dito a centinaia di migliaia di profughi dalla Siria e di vittime in Siria. Questa è la cosa incredibile. Kobane, aspettate che c'è una interruzione perché ci sono sviluppi in corso, sviluppi quindi... che arrivano dalla Francia, come inevitabilmente